WhatsApp per PC, che è praticamente uguale identico a WhatsApp, ti dà la possibilità. Praticamente Telegram. Luca, ci sei? No Maria, attenzione, si ho Figaro. Ci sei? Luca, ci sei? Marco, mi ci sei? Marco, mi ci sei? Luca!